questa dolce malinconia, lo sfoghi i miei pensieri alla mia fantasia. Sono confuso, nessuna spiegazione, mi sento a darmi luci dalla soluzione. Ricordo ogni dettaglio con estrema precisione, il tuo maglioncino rosso davanti al bancone, la mia borsa a spalla all'entrata dell'ostello, ed intorno a noi c'era davvero un gran bordello di voci di persone, di nazioni diverse, personalità nel profondo asse. Un desiderio vivo di conoscere il mondo, non solo vedere ma guardare nel profondo quello che è lo stupendo posto in cui viviamo. Forse non ha un senso, ma noi non ci arrendiamo, scordando ogni domanda, noi guardiamo avanti. Sappiamo poche cose, le importanti sono distanti. Quello che so è che andrò sempre più lontano, cercherò quello che cerca dobbiamo. Passeggerò su prati e montagne verdi, cercando l'equilibrio su pochi fondamenti. Troverò l'oggetto della mia ricerca, non per incapacità ma per la sua inesistenza. Su cosa sostenermi se non si illusioni? Tutto dipende dalle nostre decisioni, perché di universale penso c'è davvero poco. Partecipiamo tutti allo stesso gioco, ognuno deve scegliere il proprio obiettivo, crederci fino in fondo nonostante sia soggettivo. Arriverà il giorno in cui sarò sereno e in pace con me stesso e con il mondo intero, così da dare il giusto peso alle varie cose, trattare con cautela le più pericolose. Non mi lascerò turbare da fattori esterni, dentro sarò forte, forte di valori eterni, la persona giusta accanto per il resto della vita, quello che serve solo un plettro fra le dita. Scoperto.